Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 5 Anania, e la moglie Saffira, venduto un podere, si ritengono parte del prezzo, e interrogati da Pietro negano il fatto, per la qualcosa alla parola di Pietro il marito, e la moglie sono da repentina morte colpiti. Gli apostoli, e particolarmente Pietro, fanno molti miracoli, e messi in carcere, sono liberati dall'angelo, e presi di nuovo non si inducono a tralasciare la predicazione del nome di Cristo. Per consiglio di Gamaliele sono licenziati dopo le battiture, lieti di aver meritato di patire o per il nome di Cristo, cui tornan tosto a predicare. Ma un certo uomo detto Anania con Saffira, sua moglie vendè un podere, e d'accordo con sua moglie ritenne del prezzo, e portandone una tal qual porzione, la pose a piedi degli apostoli. E Pietro disse, Anania, come mai Satana tentò il cuor tuo a mentire allo Spirito Santo, e ritenere del prezzo del podere? Non è egli vero, che conservandolo stava per te, e venduto era in tuo potere? Per qual motivo ti sei messa in cuore tal cosa? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Udite, che ebbe Anania queste parole, cadde, e spirò. E gran timore entrò in tutti quei, che udirono. E si mosser dei giovani, e quindi lo tolsero, e portaronlo a seppellire. Era trascorso lo spazio di circa 3 ore, quando la di lui moglie non informata del successo arrivò. E Pietro le disse, «Dimmi, o donna, avete voi venduto il podere per il tal prezzo?» Ed ella disse, «Così appunto». E Pietro a lei, «Per qual motivo vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, sono alla soglia ai piedi di coloro, che hanno data sepoltura a tuo marito, e ti porteranno fuori». E i mantinenti ella cadde a suoi piedi, e spirò. Ed entrati che giovani trovarono la morta, e la portarono a seppellire accanto a suo marito. E gran timore ne nacque in tutta la chiesa, e in tutti coloro, che udirono tali cose. E molti segni, e prodig faceansi nel popolo per le mani degli apostoli. E se ne stavano tutti d'accordo nel portico di Salomone. Degli altri poi nessuno ardiva di affratellarsi con essi, ma il popolo li celebrava. E più cresceva la moltitudine di che credevano nel Signore, uomini, e donne. Talmente che portavano fuori nelle piazze i malati, e li mettevano sopra letti, e strapunti, affinché, passando Pietro, l'ombra almeno di lui adombrasse alcuno di essi, e fosser liberati dalle loro infermità. Concorreva eziandio a Gerusalemme molta gente dalle vicine città, portando dec malati, e vessati dagli spiriti immondi, i quali erano tutti quanti risanati. Ma esacerbato il principe dec sacerdoti, e tutti quelli del suo partito si riempirono di zelo. E messer le mani addosso agli apostoli, e li poser nella pubblica prigione. Ma l'angelo del Signore di notte tempo aprì le porte della prigione, e condottili fuora, disse, andate, e statevi nel tempio a predicare al popolo tutte le parole di questa scienza di vita. Ed essi udito questo entrarono sul far dell'alba nel tempio, ed insegnavano. Ma venuto il principe dei sacerdoti, e quelli del suo partito, convocarono il sinedrio, e tutti i signori dei figliuoli di Israele, e mandarono alla prigione, perché li fossero condotti davanti. E andati i ministri, e aperta la prigione non li trovando, tornarono indietro a recar questa nuova, dicendo, quanto alla prigione l'abbiamo trovata chiusa con tutta puntualità, e le guardie fuori in piedi alle porte, ma aperta la niuno vi abbiamo trovato dentro. Udite tali parole, il prefetto del tempio, e i principi dei sacerdoti stavan, perplessi, dove queste cose andassero a finire. Ma sopraggiunse chi diede lor questo avviso, ecco che quegli uomini, che furono messi da voi in prigione, stanno arditamente nel tempio, e insegnano al popolo. Allora andò il magistrato con i ministri, e li menò via, non con violenza, impero che temevan di non esser lapidati dal popolo. E li condussero, e presentarono al consiglio, e il sommo sacerdote Gl interrogò, dicendo, noi vi abbiamo strettamente ordinato di non insegnare in quel nome, ed ecco, che avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete renderci responsabili del sangue di quell'uomo. Rispose Pietro, e gli apostoli, e dissero: bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Il Dio dei padri nostri ha risuscitato Gesù, cui voi uccideste, appesolo ad un legno. Questo principe e salvatore lo esaltò il Dio con la sua destra per dare ad Israele la penitenza e la remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose, ed anche lo Spirito Santo dato da Dio a tutti quelli che a Lui ubbidiscono. Quelli, udite tali cose, smaniavano, e trattavan di mettergli a morte. Ma levatosi su uno del consiglio chiamato Gamaliele, fariseo, dottor della legge, rispettato da tutto il popolo, ordinò di metter fuori per un po' di tempo quegli uomini, e disse loro: uomini israeliti, badate bene a quel che siete per fare riguardo a questi uomini. Impero che prima di questi giorni scappò fuori Teuda, dicente, se essere qualche cosa, col quale si associò un numero di circa 400 uomini, il quale fu ucciso, e tutti quelli che li credevano furono dispersi e ridotti a niente. Dopo questo scappò fuori Giuda il Galileo nel tempo della descrizione, e si tirò dietro il popolo, ed egli ancora perì, e furono dissipati tutti quanti i suoi seguaci. E adesso io dico a voi, non toccate questi uomini, e lasciateli fare, conciò sia che se questo pensiero, o questa opera viene dagli uomini, sarà disfatta. Se poi ella è da Dio, non potrete disfarla, che non sembri che fate guerra anche a Dio. E approvarono il suo parere. E chiamati gli apostoli, battuti che gli ebbero, intimaron loro di non parlare né punto né poco nel nome di Gesù, e li rilasciarono. Ed essi se ne andivan contenti dal cospetto del consiglio, per essere stati fatti degni di patir contumelia per il nome di Gesù. E ogni dì non cessavano e nel tempio, e per le case di insegnare, e di evangelizzare Gesù Cristo. Note 5,2 ritenne del prezzo. La frase greca significa propriamente mettere a parte, e con ciò viene a spiegare che costoro, imitando all'esterno il distaccamento dai beni della terra e l'amore della povertà, dei quali vedevano esempi sì grandi nella Chiesa nascente, mossi da spirito di diffidenza pensavano al tempo stesso a provvedere alle loro occorrenze. 5,3 a mentire allo Spirito Santo. Dice S. Pietro che Anania ha mentito allo Spirito Santo perché, avendo egli promessa a Dio e alla Chiesa l'intera offerta dei suoi beni, ne aveva ritenuta con frode una parte, quasi potesse ingannare Dio non meno che gli uomini, e violando un voto, col quale la cosa offerta veniva ad essere santificata e consacrata, aveva fatto ingiuria allo Spirito Santo, cui particolarmente attribuisconsi le opere di santificazione, o perché finto aveva di fare per il Spirito del Signore la stessa offerta. Quando a farla non era stato consigliato, se non da vanità, e da desiderio di lode, come appariva dal furto sacrilego nella offerta medesima da lui commesso. A questa seconda interpretazione è favorevole la frase greca. 5,4 Non è ecli vero, che conservandolo stava per te, e venduto era in tuo potere? Il senso di queste parole si è, se tu amavi tanto il tuo potere, ovvero temevi di potere averne un di bisogno per il tuo sostentamento, nessuno ti costringeva né a venderlo, né a far dono del prezzo dopo averlo venduto, e il fondo, e il prezzo erano cosa tua, ed eri padrone di disporne a tuo talento prima di averlo offerto al Signore. 5,5 Cadde, e spirò. La voce di Pietro fu come un fulmine, che atterrò il peccatore. Con sì terribile esempio volle Dio imprimere nei fedeli un santo timore, e rendere vie più rispettabile l'autorità dei pastori. Un antico nemico del cristianesimo ebbe ardire di accusare di crudeltà S. Pietro, per aver punito con tanto rigore Anania, e la moglie, ma non si accorgeva costui, che la sua bestemmia andava a ferire piuttosto Dio, che l'apostolo, perché Dio, e non Pietro fu quegli, che l'uno, e l'altra punì con tal morte, essendo Dio solo padrone della vita e della morte dell'uomo. Alcuni padri sono di sentimento che castigando costoro con la morte temporale li salvasse Dio dalla eterna mediante la contrizione del cuore che in essi infuse io quegli ultimi momenti. 5,6 E si mosser dei giovani. Sembra che questi fossero già destinati a rendere gli ultimi uffizi di carità ac defunti. Il che da conoscere con quanto ordine si facessero le cose fino da che primi di nella Chiesa. In progresso di tempo noi troviamo nelle grandi chiese una classe di uomini aggregati al clero, e deputati specialmente alla cura dei morti, e particolarmente dei poveri. Quello che la nostra Volgata ha tradotto, e quindi lo tolsero, può forse anche tradursi lo fasciarono, e con questo alluderebbe alla consuetudine degli orientali di fasciare i cadaveri prima di portarli alla sepoltura, e varie versioni antiche comprovano questa interpretazione. 5,12. Face ansi nel popolo per le mani degli apostoli. Vale a dire, che i favori, e le grazie del cielo erano comunicate insieme con la fede al popolo semplice, e docile, mentre i grandi, e i nobili con la loro incredulità, e superbia il fonte chiudevansi della divina beneficenza. Per le mani degli apostoli è lo stesso, che dire per ministero, per opera degli apostoli secondo la frase ebrea ripetuta più volte nelle scritture. Nulla di meno può anche aver voluto il sacro storico accennare, come questi miracoli erano ordinariamente operati mediante l'imposizione delle mani. Nel portico di Salomone. Questo portico era molto vasto, ed era nell'atrio detto dei Gentili, onde ivi potevano con maggiore libertà, e concorso di gente predicare il Vangelo. 5,13. Degli altri poi nessuno ardiva e ci. Chi siano quelli dei quali debbano intendersi queste parole, non è certo presso GL interpreti. L'opinione più verisimile, e quasi certa, si è, che si accennino i magnati, i principi, i nobili, e in una parola le persone di maggior reputazione in Gerusalemme, le quali o per avversione al Vangelo, o per timore dei magistrati, o per altri umani rispetti non avean cuore di unirsi alla Chiesa, e tranquilli spettatori restavansi delle meraviglie che operavano gli apostoli, e della propagazione del Vangelo, al quale soggettavasi il semplice popolo ammiratore delle azioni, e della dottrina dei medesimi apostoli. 5,14. E più cresceva e ci. L'esempio dei grandi, a quali suole d'ordinario il popolo conformarsi, non impediva in alcun modo la prodigiosa dilatazione della fede. 5,15. Affinché, passando Pietro, eci. Chi vide mai sopra la terra potestà simile a quella conceduta da Cristo al capo dei suoi apostoli? Il toccamento della veste del Salvatore avea guarito qualche malato, la sola ombra di Pietro è feconda di miracoli, e di guarigioni. Così adempie Cristo quello che avea già detto, chi crede in me, le opere, che fo io, le farà anche egli, e ne farà delle maggiori di queste. S. Agostino nel libro De Catechizandis Rudibus, capitolo 22. Riferisce come storia indubitata, che l'ombra di Pietro rendette a un morto la vita. 5,17. Che è la setta dei Sadducei e ci. Il gran senato degli ebrei era diviso in due fazioni, dei farisei, e dei Sadducei, dice però adesso S. Luca, che è il sommo pontefice, e quelli del suo partito erano Sadducei, nemici della risurrezione, e perciò da doppia causa stimolati ad opporsi al Vangelo, l'orelo del giudaismo, e la difesa della loro setta, alla quale dava un colpo mortale la risurrezione di Cristo predicata dagli apostoli. 5,20. Tutte le parole ci. Parole di vita eterna, perché dell'eterna vita procurano agli uomini la cognizione, e l'amore, e custodite alla vita eterna conducono. 5,21. Il Sinedrio, e tutti i signori. Convocarono tutti gli altri primari sacerdoti, e gli scribi, e di più tutti i senatori di Gerusalemme, e forse anche i senatori di altre città, i quali a Gerusalemme trovavansi in occasione della festa, così l'adunanza dovette essere solennissima. Gli ebrei dicono, che, oltre il Sinedrio dei Lei, in Gerusalemme, e nelle altre primarie città eravi un senato detto dei 23. 5,23. L'abbiamo trovata chiusa con tutta puntualità. Senza che da alcun segno potesse conoscersi, che fosse stata sforzata. 5,28. E volete renderci responsabili e ci. Questo discorso dimostra che gli animi di costoro erano non solamente persuasi, che miracolosamente erano gli apostoli usciti di prigione, ma erano anche commossi da un avvenimento sì grande, impero che non solo non rimproverano ad essi il fatto, né li minacciano, ma affettando mansuetudine e umanità, si lamentano solamente con gli apostoli, che mancando essi all'ordine dato loro di non più parlare di Gesù Cristo, e predicandolo, e guadagnando a lui dei seguaci, venissero a rendergli odiosi al popolo, e li mettessero in pericolo non sol dell'onore, ma anche della vita, come quelli che avevano data morte a colui, che egli non come vero Messia predicavano pubblicamente. 5,30 Il Dio dei padri nostri ecce affinché non potessero opporre, che altro Dio fosse predicato, e riconosciuto da seguaci del Vangelo, dice Pietro, che lo stesso Dio, che fu adorato da Abramo, da Isacco, da Giacobbe, è quegli, che ha risuscitato Gesù Cristo. 5,31 Questo principe, e salvatore lo esattò il Dio. Per dare ad Israele la penitenza, eci. Questi due caratteri di re, e liberatore aver dovea, il Messia aspettato dagli ebrei e dice adunque Pietro, che ambedue convengono a Cristo, ma dice ancora, di qual sorta sia il suo regno, e quale sia la liberazione, della quale egli è principio, e autore, egli dee regnare nei cuori degli uomini purificati per la penitenza, e mediante la remissione dei peccati, effetto della morte del Salvatore, impero che secondo il detto di S. Clemente Pontefice e Martire, il sangue di Cristo ha prodotto al mondo tutta la grazia della penitenza. 5,32 Ed anche lo Spirito Santo. Non solamente noi, ma lo stesso Spirito Santo con infallibili testimonianze dimostra la verità della nostra predicazione con i miracoli, che egli opera per le mani di noi ministri del Vangelo, e con la prodigiosa effusione dei doni suoi nei fedeli. 5,34 Gamaliele. Questi è il maestro dell'Apostolo Paolo, e morì cristiano, e le sue reliquie con quelle del protomartire Stefano, di Nicodemo, e di Abiba figliuolo dello stesso Gamaliele furono trovate dal santo sacerdote Luciano l'anno 415. Presso al borgo di Cafat Gamala discosto 20 miglia da Gerusalemme. 5,36 Prima di questi giorni scappò fuori Teoda, eci. Sotto l'impero di Augusto. Giuseppe poi fa menzione di un altro impostore dello stesso nome, il quale fu ucciso da Cuspio Fado preside della Giudea l'anno quarto dell'impero di Claudio. 5,37 Giuda il Galileo nel tempo della descrizione, eci. Questo Giuda credono alcuni essere lo stesso, che quello, cui Giuseppe dà il soprannome di Gaulonite dal luogo della sua nascita. I giorni della descrizione sono i giorni, ovvero il tempo, in cui facevasi il censo. Questo Giuda diceva, che non dovea il popolo fedele servire a Romani, né gli era lecito di pagare il tributo, né di riconoscere altro padrone, che Dio. 5,39 Non potrete disfarla. Impero che non vuo consiglio, né potere, né forza contro il Signore. 5,41 Per essere stati fatti degni di patir contumelia eci. Le battiture erano l'ordinario gastigo degli schiavi, per questo dice di patir contumelia, cioè a dire non solamente un trattamento ingiusto e crudele, ma anche obbrobrioso. È certamente un gran dono il patire per Cristo, onde quelle belle parole dell'Apostolo a Filippesi, i 29, a voi è stato donato per Cristo non solo il credere in Lui, ma anche il patire per Lui.